Vendo tutto di Matteo Caccia. Da qualche tempo vivo senza la Vespa, senza la TV, senza la borsa tracolla, senza il frigorifero. Non gioco più a tennis, non scio più, non vado più a teatro. Eppure vivo bene uguale. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una maca. La maca è un po' il grande simbolo dell'ozio. Ozio V0024-0024, ce l'avevo qua. Scusate, chiedo scusa a tutti. Fagin, scusami. 800240024 oppure 349-238-6666. Non per dirmi che sono un cretino, quello lo fate già in tanti, quindi oggi magari anche lasciate stare e risparmiatevi un SMS, ma solo persone che oggi hanno voglia di fare un elogio all'ozio. 800240024. In che modo? Non che se lavorate tutto il giorno mi dite come sarebbe bello non fare niente. No. Oggi proprio gente che non fa niente. Serve proprio niente. Ora adesso poi raddrizziamo un po', nel senso che va bene, se c'è qualcuno che proprio non fa niente, che magari è in pensione, che si gode proprio il fare niente e non vive con il senso di colpa del effettivamente dovrei combinare qualcosa, non combino niente. No, che proprio se la sta godendo, alla faccia di tutti quelli che lo guardano e dicono bello fare niente tutto il giorno. Ecco, se siete quelli, ho voglia che mi chiamate e mi raccontate che cosa fate, mi fate un bel elogio al non fare nulla. 800240024 349-238-6666. Oppure persone che lavorano, come la maggioranza fortunatamente, che lavorano, che studiano, ma che dedicano una parte della giornata all'ozio puro, a non fare niente, magari appunto come capitava a me quando ce l'avevo ancora, o meglio prima di venderla oggi mi piazzavo sulla maca, si mettono sul divano, si ascoltano un po' di musica classica dopo pranzo, che ne so, ma proprio anche leggere no, proprio non fare niente. 800240024 oppure 349-238-6666. Anzi, facciamo un esperimento. Adesso noi proviamo a fare un minuto, Bonini, un minuto è troppo, 30 secondi anche, facciamo 5 secondi, voi siete all'ascolto, se state scrivendo, sarete al computer, se siete in macchina è un po' più difficile, se siete a casa, proviamo a non fare niente per 5 secondi, ok? Paolino, mi togli la base per piacere, ok? Io parto a contare e poi basta, siete pronti? 1 Voilà, 5 secondi senza fare niente. È una figata. 800240024, l'elogio dell'ozio. Solo persone che non fanno niente o che si ritagliano una piccola parte della giornata per non fare nulla. Oppure 349-238-6666. L'elogio dell'ozio in nome anche di questa maca che vendo oggi. Se volete vederla, radio24.it. Per sentire la sua storia, invece, eccoci qua. La maca. Amaca brasiliana in filo di cocco, colore bianco. Lunghezza 3 metri e 40 centimetri, larghezza 2 metri e 70 centimetri, dotata di asole all'estremità per l'aggancio. Perfetta per dormire scomodi e aderire alla filosofia della siesta. Valore commerciale 56 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Da bambino ero spaventato dai mercati. Credo che la mia paura principale fosse dovuta all'idea di perdermi in mezzo alla gente e che i miei genitori non mi trovassero più. Ero addirittura intimorito dalle grida dei fruttivendoli che richiamavano la gente verso il loro banco. Poi sono cresciuto, più o meno, e ho iniziato ad apprezzare l'odore dei banchi dei salumi dei formaggi, oppure i colori dei venditori dei fiori, di abiti. Il mercato ora mi appare come l'aspetto più democratico del commercio, un luogo in cui tutti i venditori portano la propria merce e chi vuole comprare nel raggio di un centinaio di metri può scegliere quale verdura preferisce o quale frutta costa meno. Il sabato mattina, se sono a Milano, frequento sempre due mercati. Il primo è il mercato di Via Tabacchi, in zona ticinese, dove prendo un po' di roba fresca per la settimana. Il secondo invece è la Fiera di Senigallia. La Fiera di Senigallia in realtà non è un mercato vero e proprio, nel senso che non si vendono cose commestibili. È un mercatino delle pulci, una sorta di grande rigatteria a cielo aperto. La prima volta che ci sono andato avevo 16 anni. Sono partito in treno da Romentino con 4 amici. Era un sabato mattina, ovviamente, perché la fiera di Senigallia è sempre il sabato mattina. A scuola c'era stato uno sciopero e noi avevamo preso al volo l'occasione. Siamo scesi alla stazione di Porta Genova e siamo andati verso la Darsena dei Navigli. Era una giornata di sole. Milano era bellissima e piena di gente come noi. Ecco, questa cosa mi colpì. Il fatto che non avevo mai visto tanta gente della mia età vestita nello stesso modo e tutta nello stesso posto. Sono passati più di 15 anni da quel giorno. Fortunatamente i 16 anni ora non vestono più come vestivo io alla loro età. Però la fiera di Senigallia è ancora lì. Anzi no, a dire la verità non è proprio lì dove l'avevo trovata la prima volta. Perché qualche anno fa nella Darsena dei Navigli hanno iniziato a costruirci un parcheggio che non hanno ancora finito. E la fiera si è trasferita lì vicino, dietro la stazione di Porta Genova. Però le bancarelle sono le stesse. Gli ambulanti sono gli stessi. Perfino la gente che la frequenta sembra la stessa. È un posto pieno di roba di seconda mano. Dai libri ai vestiti militari. Dalle canne da pesca ai giocattoli. Dai fumetti alle macchine fotografiche. La fiera è nata nei primi anni dell'Ottocento, proprio sui bastioni di Porta Genova, dove un gruppo di straccivendoli si riuniva per vendere abiti usati. Ed è diventata oggi l'unico mercato delle pulci di Milano a cadenza settimanale. Negli anni da allora ci ho comprato diverse cose, ma l'ultima è quella che vendo oggi. È una maca brasiliana, in fibra di cocco, o così almeno me l'ha venduta il signore della bancarella. Lo stesso che mi ha regalato un bellissimo articolo, un articolo del Corriere della Sera del 1906, in cui si parlava della fiera di Senigallia così. Il piccolo pubblico passa e ripassa, con le sue poche lire o i suoi pochi soldi in tasca, davanti a quella esposizione settimanale di miseria e di buona volontà, lungo quella via crucis di tutte le cose moriture, mutilate, deformate e ostinatamente vive, tuttavia, che è la fiera di Senigallia. E quando la notte ormai è morta, gli uccelli sono soliti, il giorno annuncia. Le coppie abbracciate son prime a lasciare la fiesta per andarsi ad amare. La pista ormai vuota restava, lui stanco e sudato aspettava. Lei per scherzo girò la sua gonna e si mise a danzare. Da quando sono entrato in possesso di questa maca, ho scoperto il concetto di siesta. La appendevo alla reghiera del mio balconcino e mi ci sdraiavo nei pomeriggi di primavera. Quelli estivi no, perché sul mio balcone non c'è un filo d'ombra e mi sarei arrostito. Per me che vengo da un laborioso paesino della Bassa Padana, scoprire che esistevano culture che avevano istituzionalizzato il riposino dopo pranzo fu una sorta di rivoluzione copernicana. A dire la verità, la scoperta avvenne prima dell'acquisto della maca, e non in un paese caraibico, ma in Sardegna. Con i miei genitori eravamo in vacanza in un paesino del sud dell'isola, uno di quei posti non ancora toccati dal turismo dell'happy hour. Un pezzo di Sardegna fatta di miniere dismesse e spiagge deserte. Avevamo affittato una casa con un piccolo giardino. Tornati dalla spiaggia, mio padre aveva deciso che per pranzo avrebbe fatto una grigliata di carne. Ora, nessuno di noi in famiglia è mai stato capace di accendere il fuoco. Abbiamo sempre dato alle fiamme decine di pagine di giornale senza mai combinare niente. Quindi, vista la fame e il fatto che erano le 2 del pomeriggio, di mia spontanea volontà decisi di andare al supermercatino del paese per prendere tonnellate di diavolina. Arrivai davanti al negozio del signor Ruggiu, ma la serranda era chiusa e l'orario esposto diceva riapertura alle ore 17. Quel giorno mangiamo tristamente del melone e un po' di prosciutto. Fu allora che ho scoperto che ci sono posti in cui la civiltà è più avanzata che in altri. E quindi i ritmi che si seguono non sono quelli imposti dall'uomo, ma quelli della natura. Perché a pensarci bene, no? Uno, dopo che ha mangiato, anche qui sotto, anzi, soprattutto qui sotto, alla messa del sole 24 ore, uno non ha bisogno, no? Non dico tanto, ma 20 minuti per stendersi, riposare le idee? Ci sono imprenditori illuminati che addirittura teorizzano la produttività della pennichella. Ho letto di ricerche strane e misteriose provenienti dagli Stati Uniti, perché non so perché, ma le ricerche strane e misteriose arrivano sempre dagli Stati Uniti. Insomma, secondo queste ricerche, dormire mezz'ora dopo pranzo aumenta le capacità del cervello di svolgere operazioni complesse del 34%. Si dice che la NASA abbia istituito il cosiddetto nap, il sonnellino, perché in chi riposava 20 minuti aveva riscontrato un livello di reattività e lucidità doppio rispetto a quelli che erano rimasti svegli. Insomma, ormai la scienza dà ragione a chi vuole riposare e a me che mi ero comprato questa maca alla fiera di Senigallia. Quindi, se non l'avete ancora fatto, se siete a casa, se siete in ufficio, appoggiate la testa per una mezz'oretta e la giornata vi sorriderà. Io, per quanto mi riguarda, invece, vado avanti e vendo questa maca. Il suo valore è di 56 euro, base d'asta 99 centesimi. Se siete dell'amanti dell'ozio e volete raccontarmelo, 80024 0024. This feels so natural, Peter Gabriel too. Feels so unnatural, Peter Gabriel. Venti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e prima di riattaccare con l'ozio vorrei fugare ogni dubbio perché mi è già arrivato qualche messaggio durante la diretta. Una curiosità, tu hai per caso prestato la voce per uno spot radiofonico che passa su Radio 24? La risposta è no. 80024 0024, 349 238 6666. Fabrizio da Valenza: oggi non faccio niente perché ieri non ho fatto niente ma non avevo ancora finito. Sono riuscito a lavorare per un anno e due mesi filati, non male. Potrei scrivere un elogio dell'ozio inguagliabile, è solo che sono troppo pigro per farlo. Giorgio, e poi Gabriele che non è molto d'accordo. L'elogio dell'ozio è l'equivalente dell'elogio della morte. 80024 0024. Io voglio sentire subito Remo da Milano che mi racconta la giornata tipo di chi non fa una mazza. Pronto? Ciao caro. Ciao Remo, come stai? Bene, grazie. Naturalmente. Senti, tu hai il potere di raccontarmi la giornata tipo perché tu sei la persona tipo che non fa una mazza? In questo momento della mia vita assolutamente sì. Come mai? Beh, perché ho lavorato tanto, sono rimasto una persona, diciamo così, molto attiva nella testa, però ho deciso fisicamente di non occuparmi più di nulla. Quanti anni hai, Remo? Scusami se si può domandare. Io ho 60 anni. E cosa hai fatto nella vita? Io nella vita sono stato un uomo di successo, avevo una grande agenzia commerciale con venditori, cose del genere. Ho fatto questa attività fino a 52 anni. Nello stesso tempo mi sono occupato anche di altri affari a latere, che sono quelli che mi permettono anche di fare le cose che faccio adesso. Cioè, Remo, hai fatto un botto di soldi, diciamocelo. Ma diciamo così che ho guadagnato bene per poter fare anche queste cose qua. Però siccome ci sono persone che hanno guadagnato come me ma sono ancora impazziti dal lavoro, ecco che la differenza. Sai, di solito, Remo, sai cosa fanno di solito quelli che come te, che hanno lavorato tanto? Fanno i consulenti. Non ma so se li hai sentiti. Ma non, guarda, posso dirti una cosa, va dimmi. Bene, sono tutte palle al 90%. Oh, è un... Guarda, Remo, guarda, la verità. Io non l'ho mai detto. Non riescono ad ammettere praticamente di non essere più tenuti in considerazione da nessuno. Mm. Ok, escono al mattino, fanno il giro del parco, poi hanno fatto una consulenza praticamente, raccontato in giro. Allora, vabbè, questa mi sembra un po' dura, Remo, però senti, veniamo a te invece, raccontami come si svolge la tua giornata, grosso modo. Vabbè, allora ti dico la mia giornata tipo perché in realtà poi ogni giornata ha molte varianti. Chiaro, vabbè, chiaro, la chiaro. La mia giornata tipo è che mi sveglio normalmente verso le 8, non mi sveglio da solo perché ho una moglie meravigliosa che mi sveglia con un caffè caldo. Ecco, tutte le fortune. L'ora è quella adatta perché voglio tenermi informato su quello che succede. Remo, purtroppo non abbiamo proprio tutta la giornata per sentire la tua giornata, quindi... Vabbè, allora te la faccio veloce. Bravo, grazie, bene. Grazie. Mi guardo il mio telegiornale, finito il telegiornale arriva un altro caffè di rinforzo, va bene, mi alzo verso le 9:30, mi doccio, esco, faccio il giro, va bene, catteggiando di tutta una serie di amici e di altre attività sì. Di cui non mi occupo direttamente, tiriamo mezzogiorno per far colazione insieme a questi amici, al pomeriggio, va bene, se non c'è qualcosa di nuovo mi posso andare in piscina. Ma un riposino al pomeriggio te lo fai? No, questo no, no, questo la verità no. Perché mi sembra del tempo sprecato. Ok, ecco, questo non è male, che fare un riposino è tempo sprecato invece tirare mezzogiorno. Senti, dimmi come concludi la sera e poi ti saluto. Beh, la sera la concludi in mille modi, dico subito, ci può essere una cena, ci può essere un cinema, oppure normalmente una partita o cose di questo genere qua. O comunque una serata sempre diversa dall'altra, senza preoccupazioni, va bene, è tutto che dici. Remo, guarda, il tuo è un inno all'ozio, forse dovrei non prendere più telefonate dopo la tua, invece ne sentirò altre, ma ti ringrazio moltissimo. Buona giornata. Va bene, ciao. Ciao Remo, alla prossima. Ciao, ciao, andiamo ad Ascoli Piceno, da Gianfranco. Pronto? Pronto? Gianfranco, buongiorno. Buongiorno, mi sente bene, sì? Io ti sento benissimo, sì, tu mi senti? Oh, meglio così. Benissimo. Primo vorrei salutare mio figlio Giordano, se è all'ascolto. Oh, beh, scusami, hai detto come si chiama tuo figlio? Giordano. Giordano, perfetto. Che non vuole più studiare, anche se era migliore pagella. È stato perché migliore non vuole pagella, più studiare, scusami? Non vuole più studiare perché non è perché vuole far l'ossio, anzi vuole andare a lavorare addirittura. Ma quanti anni ha? Ha 21 anni. Però Gianfranco, come dargli torto a 21 anni? Allora, cioè, detto tra di noi. Ma la scuola, poi ha trovato dei professori che gli ha fatto odiare. Vabbè, vabbè. Senti, forse è un discorso che riguarda più voi che non me, lui, direi. Mi racconti invece tu da quanto tempo ozi e come te la godi? Io me la godo perché tu sei molto giovane, mi sembra. Beh, c'ho 35 anni, insomma, me la cavicchio. Ecco, bravo, bravo. Lavori? Sì, perché lavori nella radio. Più o meno. Paghi i contributi? Anche, sì. Bravo, mi raccomando, non smettere di lavorare, perché io il 2 del mese prossimo voglio trovare quello che devo trovare in banca, eh? Cioè, in che senso? Mi mantieni in pratica, no? Ah, ok, ho capito, ho capito. Che lavora, io sto tranquillo, molto tranquillo. Da quanto che sei in pensione, Gianfranco? Beh, io in pensione non sto in pensione, io sto in ferie finché campo, il che è diverso, eh? Ma scusa, cosa hai fatto prima di andare in ferie finché campassi? Io lavoravo, adesso sto in ferie finché... Sai perché ti dico sì, che sto in ferie? Perché? Per un semplice motivo, perché sul Sole 24 Ore una volta ho visto una statistica che mi è piaciuta poco. Allora dice, chi va in pensione, chi campa un giorno, chi 30, la media è 15. E questo è come il pollo, chi ne mangia due, chi niente, un pollo a testa. No? Okay. Non mi è piaciuta. Guarda, andrò a fare le tue rimostranze a chi di dovere, sopra. Più tardi salgo al terzo piano e glielo dico. Il delle ferie non c'è, dove va? Ok, senti, dimmi a che ora ti alzi la mattina e a che ora vai a letto la sera, poi ti saluto. Io mi alzo quando capita e vado a dormire quando capita. Gianfranco, come viene. Grazie mille, buona giornata. Se la prendo, se vuoi, no, te la prendo da un'altra parte. Va bene, ciao Gianfranco. Grazie. Andiamo a Nicoletta della provincia di Bologna. Pronto? Pronto. Buongiorno Nicoletta. Scusa la voce, ma sono raffreddata con mal di gola. Guarda, mi sembra estremamente interessante, anzi. E infatti ho lasciato il lavoro, sto andando a casa. Nicoletta, purtroppo c'è Bonini che mi dice di stringere dall'altra parte del vetro. Mi dici al volo... Niente, io lavoro per vivere, sì? Non vivo per lavorare. Cosa fai? Sono impiegata, okay. Tra l'altro in una società sportiva, quindi tutta di gente attiva, okay. Così. Però? Io ho bisogno di avere dei momenti di ozio, ne ho sempre avuto bisogno anche quando ero molto più giovane. E quando te li ritagli? Ma anche un weekend del pigiama, come lo chiamo io. Ok, quindi non fare niente. Il pigiama il venerdì sera e togliermelo il lunedì mattina per andare a lavorare. E avere perfetto. Il frigo sufficiente per passare quelle ore e non fare un tubo. Quindi niente per il weekend. Nicoletta, grazie mille, buona giornata. Ciao, alla prossima. Mi mandano una citazione, me la manda il Genovesi. Tutti sono capaci di lavorare, pochi conoscono l'arte dell'ozio. Tra quei pochi non ci sono Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paulino Corleoni. La Macca è sul sito, come al solito. Domani vendo un oggetto che è piccolo, ma per me è fondamentale. È un delfino giocattolo. Vi ricordo che potete ascoltare Vendo Tutto in replica la notte a 1:30. Voi nel frattempo non lavorate troppo e godetevi la siesta, che alla fine anche il lavoro è solo lavoro. Love, love, love.